1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7 e 18 minuti, anzi ormai 7 e 19 minuti, che ci fate ancora lì? Razza di debosciati! Caro Damiano, che mi scrivi oggi come va? Buongiorno Milan, non ti sento molto atletico. Ma che razza di... ma Damiano, ma... Buongiorno Damiano, un grosso abbraccio anche a te, eh? Buona vita, Va bene, razza di debosciati, che fate? Allora, dovete andare a lavorare. Vi ricordo questo, ve lo ricorda anche l'orario, le 7:19 minuti. Ci sono i bambini da portare a scuola, mi raccomando. A proposito di scuola, noi oggi avremo quella che io ieri ho eletto come mia eroina del giorno, la preside, dirigente scolastica Angela Palomba, a Pozzuoli, colei che si è barricata dentro la scuola per evitare che i lavoratori socialmente utili, gli ex lavoratori socialmente utili che stanno protestando, occupando le scuole, occupassero anche la sua di scuola. E l'avremo alle 8:15. E poi parleremo certamente di politica, 48 ore dalla formazione, ormai pare chiara, del chiara nel senso almeno nella sua testa, del governo Renzi. Parleremo anche di questo faccia a faccia in 10 minuti, fossero un minuto a round, 10 round tra Beppe Grillo e Renzi stesso. Avremo ospite Riccardo Nuti, deputato del Movimento 5 Stelle, e Ermete Realacci del PD alle 8:30. Ora andiamo a sfogliare i giornali. I titoli intanto dei quotidiani di questo giovedì 20 febbraio, il Sole 24 Ore, allarme finanza pubblica, la spesa torna a crescere. Questo è il titolo, l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti. Per il Corriere della Sera, Renzi all'esame del Quirinale. Mentre Repubblica, i paletti del Colle sull'economia. Per il giornale, fatta la lista dei ministri. La Stampa, economia, pressing su Renzi. Per il Secolo XIX il Colle spinge un tecnico all'economia. Questo è uno dei temi chiave della politica, cioè la scelta del Ministero dell'Economia e le pressioni, consigli, mettetela come volete, del Colle, del Quirinale. Il Messaggero, Renzi frena su Alfano ministro. Per Libero invece, chi c'è dietro Renzi, la rete ombra del Premier. Il Fatto Quotidiano, Renzi tratta in segreto con Berlusconi e Grillo lo rottama in diretta. Mentre il Manifesto mette le foto di Berlusconi e Renzi, faremo grandi cose. Avvenire, Renzi stretta finale, mentre l'Unità Grillo affonda in streaming. Insomma, come vedete, declinato in tutte le salse, ma la situazione del governo è la situazione del governo nascituro, è la situazione, è il titolo certamente che prende le prime pagine di tutti i giornali. Io però, come al solito, voglio partire da alcune notizie che mi hanno incuriosito. Prima tra tutte la vicenda, o meglio l'appendice della vicenda, dei falsi, fortunatamente, o suicidi a Sanremo, o di coloro che hanno minacciato di buttarsi di sotto alla prima di Sanremo. Perché io ieri avevo detto chi ha pagato il biglietto, e qui si è scoperto che hanno fatto una colletta tra tutti questi lavoratori precari per mandare non due, le due persone che avete visto, ma quattro persone, erano in quattro, perché hanno dovuto fare, come dire, distrarre i commessi, cioè c'è stata una situazione per cui c'era anche una donna che nel momento in cui è partito Sanremo ha finto un malore, allora tutti a guardare questa donna, intanto queste due persone hanno eluso la sorveglianza, sono arrivati lì appunto sulla balaustra minacciando di buttarsi di sotto. Il giallo sui giornali oggi prosegue, guardate il titolo del Corriere della Sera, Renato Franco a pagina 50, quei disperati in galleria già sotto accusa per assenteismo. Addirittura su Libero è i finti telesuicidi, pregiudicati pagati per non lavorare, il retroscena dello show. Come al solito ricordatevi, la verità non è mai quella che vedete in taluni casi. Per esempio, Sanremo, Renato Franco, Corriere della Sera, erano una donna, Maria Rosaria Pascale, e tra l'altro su questo nome libero invece scrive nel suo articolo e non ironizzate sul cognome, nessuno faccia battute. Tre uomini, Antonio Sollazzo, Marino Marsicano e Salvatore Ferrigno, sono riusciti a beffare la security della questura e del teatro, ottenere così nell'ora di punta l'attenzione forzata degli osservatori del paesaggio televisivo. Ma si scopre che già queste persone, secondo la questura, sono note alle forze dell'ordine per due punti: truffa per assenteismo dal posto di lavoro, reati contro il patrimonio, interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata. Sono anche già stati sottoposti al DASPO, cioè il provvedimento che impedisce di assistere alle manifestazioni sportive. Ora gli arriverà anche il DASPO Canoro? Impossibilitati a intervenire ai festival della canzone? E vabbè, comunque, questo è i contestatori. Oggi sui giornali c'è qualche dettaglio in più. Mi ha molto colpito invece una notizia che riguarda un giornale che non è uscito oggi né in edicola. Si tratta de L'Ora, quotidiano calabrese. Perché? Perché è una vicenda molto intricata che oggi viene raccontata sulle prime pagine di altri giornali. Il Fatto Quotidiano il giornale addirittura la mette come notizia a centro pagina, in prima pagina, con un commento del direttore Alessandro Sallusti. La vicenda è, per come è raccontata dal direttore del quotidiano L'Ora, c'era un articolo che doveva uscire, un articolo sgradito a un senatore, e cioè L'Ora della Calabria doveva uscire con questa notizia: l'avvocato Andrea Gentile, figlio del senatore Tonino Gentile, è indagato per truffa, associazione a delinquere, falso e abuso d'ufficio in un'inchiesta sulle consulenze d'oro nella ASL di Cosenza. Che succede? Dopo aver dato questa notizia, ecco che dice il direttore del quotidiano: succede qualcosa, era tutto pronto, racconta Il Fatto Quotidiano nell'articolo di Enrico Fierro sotto il titolo "Articolo sgradito agli amici, il giornale non si stampa". Dice il direttore: era tutto pronto quando a tarda sera l'editore mi ha chiesto di ritirare dalla pubblicazione articolo e prima pagina. Ho insistito fino a minacciare di dimettermi. Poi che succede? Mi chiama lo stampatore, che mi pronuncia anche questa frase molto strana: ricordatevi che quando il cinghiale viene ferito ammazza tutti. L'editore insiste, il direttore anche, dice no, bisogna stampare, a quel punto il giornale può uscire. No, racconta il direttore, perché alle 2 di notte lo stampatore mi chiama e mi dice che il giornale non sarà stampato per un improvviso guasto alle rotative. Mi pare evidente che le pressioni del senatore Gentile, così racconta il direttore, hanno avuto effetto. La notizia viene messa anche in prima pagina del giornale: il senatore pupillo di Alfano fa bloccare l'uscita di un giornale. Il commento di Alessandro Sallusti: la politica è fatta di grandi storie e piccole miserie, che poi tanto piccole non sono. È accaduto questo: Luciano Regolo è un collega, direttore dell'Ora della Calabria, piccolo ma combattivo giornale quotidiano di una terra dove fare informazione è cosa difficile. Ha una notizia, Regolo: la magistratura ha indagato per associazione a delinquere il figlio di un noto politico del posto, Tonino Gentile, senatore, pupillo di Alfano, da poche settimane coordinatore regionale del nuovo centrodestra. Il senatore cerca di evitare la pubblicazione della notizia e si rivolge all'editore, il quale chiama il direttore, ma niente, Regolo non cambia idea. E fin qui ci siamo, cose che accadono. Caso chiuso, ma che si fa vivo anche lo stampatore, amico del senatore. Cerca di capire, dice al direttore, perché dalle nostre parti si dice che il cinghiale ferito poi ammazza tutti. La minaccia non intimorisce il direttore, si stampi, ma guarda la coincidenza, le rotative si guastano e il giornale non vedrà mai la luce. Ne ho viste tante, scrive Sallusti, ma giuro, una così non mi era mai capitata. Un senatore, capo regionale di un partito che dice di essere il futuro dei liberali italiani, insieme ad amici impedisce l'uscita di un quotidiano per evitare la diffusione di una notizia sgradita. Ottima scelta Alfano, ha messo il partito in buone mani, e dire che è anche ministro degli interni, quello che deve liberare il sud da mafie e arroganze. Questo è l'editoriale oggi di Alessandro Sallusti in prima pagina. Beh, certamente la notizia è anche sull'Unità, inchiesta sul politico, e L'Ora, il quotidiano L'Ora, non esce. L'editore dice: è stato un guasto alle rotative. Va bene, ci fermiamo per riprendere tra qualche minuto con la politica. Due le notizie principali: il Ministero dell'Economia, allora, a chi andrà in questa squadra di governo che è già pronta? Ci ha detto anche poco fa Francesco Nicodemo, responsabile comunicazione del PD, è pronta nella testa di Matteo Renzi, e ci ha detto ci saranno delle sorprese. E poi il confronto scontro su 10 round, 10 minuti, uno a minuto, tra Grillo e Renzi. Alessandro Milan, il John Holmes dell'informazione. Sì, vabbè, non commentiamo neanche. Allora, la prima notizia politica è che Matteo Renzi ieri ha finito le consultazioni con questa diretta streaming con Beppe Grillo, scoppiettante, diciamo così. E ha detto entro sabato, il timing dovrebbe essere questo: sabato la squadra di governo e poi la richiesta della fiducia, e quindi lunedì e martedì potrebbe presumibilmente essere il giorno della fiducia Camera e Senato, e quindi la nascita ufficiale del governo Renzi. Certo, tutti si concentrano, i giornali, sempre di più sul nodo chiave, la casella del Ministero dell'Economia. Tutti i giornali raccontano che il duello praticamente riassumibile così: Giorgio Napolitano dal Quirinale vorrebbe una continuità e dunque un tecnico alla Saccomanni, magari pescando ancora in Banca Italia, mentre Renzi vorrebbe più un profilo politico. Maria Teresa Meli lo scrive a pagina 3 del Corriere della Sera: il confronto con Napolitano sui ruoli chiave, tensione per il colloquio con Grillo. Tutti sono concentrati appunto sulla tensione con Grillo, ma in realtà è stato quello con il capo dello Stato l'appuntamento più atteso di ieri, scrive il Corriere, e anche il più difficile, se è trattato di quello che in politichese si potrebbe definire un incontro franco. Matteo Renzi, Giorgio Napolitano hanno ingaggiato un braccio di ferro su alcune caselle chiave del governo, e nell'incontro il Presidente della Repubblica ha avuto modo di ricordare al segretario del PD che, come vuole la Costituzione, spetta anche a lui la nomina dei ministri. Renzi l'ha raccontata così ai fedelissimi: Napolitano mi ha spiegato che alcuni partner europei sono molto esigenti con l'Italia e vogliono che il nostro paese si presenti con le carte in regola. Il nostro credito dipende da questo. Perciò, secondo lui, il ministro dell'economia deve rappresentare la stabilità e anche la continuità, e deve essere una persona in grado di dialogare con personaggi come la Merkel. Insomma, per dirla povera, il capo dello Stato continua a preferire l'idea di un tecnico a via 20 settembre, mentre il segretario del PD, fosse per lui, opterebbe per un profilo più politico. E ancora Renzi spiega ancora ai fedelissimi: diciamoci la verità, Alfano non pone alcun ostacolo insormontabile, non lo ha mai posto nemmeno sul Ministero dell'Economia. I problemi non vengono da Angelino, è lui che ne ha con Berlusconi. Lascerò sfogare tutti per un'altra giornata e poi tirerò le somme. Tanto ogni partito sa che questo è l'ultimo governo della legislatura, quindi nessuno penserà di far saltare il tavolo in aria per andare alle elezioni. E poi ha aggiunto anche Renzi: in realtà alla gente queste cose non interessano, la gente bada alle cose concrete. Crete, e su questo ha perfettamente ragione. Sta di fatto che il Toto Ministri continua. E allora il nome che più viene dato per accreditato in questi giorni è Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, oppure Piercarlo Padoan, uno dei nomi in pole position, presidente dell'Istat. Ma Matteo Renzi vorrebbe, e subito dietro i due, quindi con un profilo più tecnico che eminentemente politico, vorrebbe invece spingere il suo, diciamo, fedelissimo Graziano Del Rio, attualmente ministro per gli affari regionali, vorrebbe portarlo appunto nella casella chiave del Ministero dell'Economia. Invece, secondo la stampa, in corsa anche l'ex presidente della Commissione Bilancio al Senato, Enrico Morando, anche lui, quindi una figura politica. Spunta una lista per l'economia, questo è il titolo di pagina 3 della stampa, che riepiloga appunto tutti questi nomi con Fabio Martini. Ma certo, il nome di Tabellini è quello che viene più gettonato anche per il Messaggero, pagina 3, tesoro, pressing per Tabellini. Il sindaco insiste, non voglio diarchie tra Palazzo Chigi e via 20 settembre, la sua prima opzione, scrive il Messaggero, rimane Del Rio. Ma anche incontrando il governatore di Banca Italia Visco ieri, che ha ricordato a Matteo Renzi il rigore di bilancio e il tetto del 3% rapporto deficit-PIL che non sono in discussione in Europa, per questo anche Visco, secondo tutti retroscena del Messaggero anche di Repubblica, ha ricordato a Matteo Renzi che invece è importante e fondamentale la continuità. E insomma, quello del Ministero dell'Economia è il ruolo chiave anche per il Corriere della Sera, pagina 8, economia, torna l'idea di un tecnico, si rafforza il nome di Padoan. Questo secondo l'articolo di Monica Guerzoni. Padoan e Guido Tabellini, questi sono i due nomi che circolano di più in questi giorni per quel che riguarda appunto il Ministero dell'Economia. Insomma, che sia una giornata... è stata un po' complicata, racconta anche Goffredo De Marchis in prima pagina di Repubblica. La battaglia del Viminale invece, pagina 2 e 3, poi continua l'articolo. I paletti del Colle per l'economia, la scelta tra un politico e un tecnico. Renzi dice, ho le mie idee, è tutto pronto. Certo, lo snodo principale è sempre il Ministero dell'Economia, scrive Goffredo De Marchis, ma snodo chiave anche è quello del Viminale, dove racconta Repubblica, Matteo Renzi non vuole più Angelino Alfano. Renzi vuole Angelino fuori dal Ministero dell'Interno. È il primo segnale di discontinuità col passato che deve dare il mio governo. Il più importante, ripete ai fedelissimi. E quindi, nonostante le pressioni di Alfano, Renzi dice no, Angelino deve perlomeno cambiare ministero, altrimenti l'architettura del governo è troppo simile al passato. Io non voglio smettere di fare il Renzi. Il cambiamento va realizzato fin dall'inizio. E poi la minoranza del PD, racconta sempre Repubblica, avrebbe chiesto tre ministri: Guglielmo Epifani al lavoro, Massimo Brai riconfermato alla cultura e Andrea Orlando riconfermato all'ambiente, se non addirittura trasferito alla giustizia, dove invece si fanno anche altri nomi, quello dei magistrati Nicola Gratteri e un altro magistrato di cui si parla è Raffaele Cantone. Vabbè, insomma, se vi diverte questa cosa del Toto Ministri, 48 ore e poi sarà sciolto il nodo. L'altra notizia che certamente ha preso le prime pagine dei giornali è questo, no, duello in streaming tra Beppe Grillo e Renzi. Più che duello, insomma, Beppe Grillo è andato lì, praticamente non gli ha fatto dire mezza parola a Renzi, dicendo io non sono democratico, non mi interessa sentire cosa dici. Ha fatto molto uno show su tutto quello che è il programma del Movimento 5 Stelle, l'ha insomma asfaltato, secondo alcuni della rete, come se fosse la politica appunto un confronto su round di pugilato. Se volete, pagina 4 del Messaggero, Sonia Oranges, c'è tutto lo sbobinato praticamente di questi 10 minuti di incontro, 9 minuti per la verità di faccia a faccia. Non siamo a chiedervi il voto di fiducia, non siamo a chiedervi un governo, ha esordito così Renzi e allora basta. Allora, perché siamo venuti e lì è partito Beppe Grillo. L'assalto in streaming, Renzi è solo un bambinetto, questo tra l'altro Beppe Grillo poi avrebbe aggiunto, secondo Andrea Malaguti, pagina 4 della stampa, avrebbe aggiunto con i suoi, Renzi è un bambinetto. Non bisogna permettere agli italiani di continuare a pensare che questo ragazzotto sia la speranza. È un bambinetto privo di contenuti, un prodotto televisivo. Questo paese mi fa pena se si affida a lui. Questo secondo Andrea Malaguti avrebbe detto Beppe Grillo ai suoi prima di entrare al al colloquio, non chiamiamolo colloquio, con Matteo Renzi. Anche Aldo Cazzullo si concentra, la diretta streaming, il monologo, i tweet, lo show di Grillo per non far parlare il leader del PD. E c'è ovunque questo retroscena raccontato da tutti i giornali della reazione di Matteo Renzi, che, se voi vedete lo streaming, è stato, non ha mai reagito. C'era molte persone che dicevano, io assistevo anche con altre persone che dicevano, ma perché non prende, si alza e se ne va Renzi, cioè perché si fa trattare così? In realtà Matteo Renzi dopo ha detto ai suoi, e questo lo trovate un po' su tutti i giornali, se ero segretario del PD e basta gli saltavo sul tavolo, ma da premier incaricato dovevo stare sereno e ci sono riuscito, perché, continua a dire ai suoi, Beppe si è rovinato con le sue mani in questo diluvio di insulti, battute, frasi fuori contesto. Così le dipinge Mario Aiello, per esempio, a pagina 5 del Messaggero, e il titolo è proprio questo: se fossi stato solo segretario del PD gli sarei saltato sul tavolo. E poi Renzi ha detto ai giornalisti: ero imbarazzato per lui e per coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Ovviamente il Fatto Quotidiano va a vedere come ha reagito la base, le varie reazioni, e ci sono coloro che dicono bravo Grillo, ci sono coloro che dicono ma no, insomma, forse andava messa più sul dialogo, bisognava andare lì a parlare. Sta di fatto che tutti i titoli dei giornali parlano di rissa, scontro. Il titolo di Repubblica, per esempio, a pagina 6, Grillo Renzi, la rissa va in streaming, non sei credibile, e Renzi a un certo punto dice tu esci dal blog. L'altro incontro è stato con Berlusconi, pochi minuti per la verità, ai quali sono stati aggiunti 10 minuti di faccia a faccia privato tra Renzi e Berlusconi, chiesti da Berlusconi e accordati da Matteo Renzi, per i quali ovviamente adesso c'è il grande complottone, cosa si saranno detti. Per avvenire si sono detti in maniera molto chiara un grande patto, cioè Forza Italia non si opporrà alle riforme, e invece Renzi dice tanto tra un anno si va a votare. Per il Fatto Quotidiano, Renzi Berlusconi, 7 minuti per un patto di ferro, anche se, come racconta Fabrizio D'Esposito a pagina 4, Matteo Renzi lo ha dovuto ammettere a caldo appena terminato l'incontro con i suoi. Dice di Berlusconi: resta il numero uno, è in forma strepitosa, un cazzaro insuperabile. Tutti i complimenti, compreso il cazzaro per Renzi. Il soggetto destinatario è il convitato di Cerone del governo che nasce, il condannato Silvio Berlusconi. Così leggo l'articolo del Fatto Quotidiano, che lo definisce anche padrino del renzismo e della Terza Repubblica. Raccontano di questo faccia a faccia nel quale, scrive il Fatto, Berlusconi racconta di avventure erotiche con nomi e cognomi delle protagoniste. Renzi ride e Del Rio, che è a fianco, è monogamo, credente, con 9 figli, ostenta un distacco imbarazzato. Vabbè, secondo i giornali il patto sarebbe questo tra Renzi e Berlusconi: noi non ci mettiamo troppo di traverso da parte di Berlusconi, ti appoggiamo sulle riforme, tra un anno però si vota. Caro Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Molto bene, sono sereno perché hanno... Meazza, stai sereno, hashtag Meazza, sereno, stai sereno. Hanno tolto la ritenuta del 20%, l'hanno sospesa. Ah. Sai quella che ti volevi far mandare i 2 urini dall'estero? Sì, famoso. Ma avevi paura che poi la banca ti facesse una ritenuta da conto del 20%? Sì. Stai sereno, Alessandro, perché l'hanno tolta. Quindi, se per dire vai in Spagna, adesso mi viene in mente un paese a caso, vai a Madrid e ti fai mandare del denaro da Madrid, non ti preoccupare, quando arriva qui alla tua banca in Italia non succede niente, bene, non ti tolgono traverse, rigore, non ti tolgono ritenute, cose così. E poi ti voglio dire, leggi le cose sulle partecipate, medita. Ci sono i comuni che hanno 16.000 partecipazioni sotto il 4%, ma mi chiedo a che gli servono. Comunque sto leggendo anch'io Giorgio Santilli a pagina 2, mi sembra interessante. Poi c'è un decreto destinazione Italia per attrarre, è diventato definitivo ieri, ci sono un po' di come dire, agevolazioni e aiuti per la ricerca, vediamo se funzioneranno, insomma. Ho parlato un minuto, hai fatto meglio di quelli, abbiamo fatto meglio di quelli di ieri. Esatto, infatti io non ho detto niente, vedi, ti dico, ma io non sono democratico, non mi interessa sapere cosa pensi. Mi interessa sapere cosa pensi, devi dire qualcos'altro, no? No, guarda, ti segnalo soltanto sul fotovoltaico, ma è proprio radiofisco. Spieghiamo ancora, facciamo un'ulteriore puntata di approfondimento sul trattamento degli impianti fotovoltaici nelle pagine di norme e tributi. Radio Fisco, tu e io non dobbiamo capire, mai. Ma chi deve capire, capisce. Questo ottimo. Ti voglio dire. Beh, questo è chiaro. Sei stato abbastanza indolore oggi, caro Mauro. Ti ringrazio di questo. Cosa vuoi infierire? Speriamo sempre in un ribaltamento del risultato a Bruxelles, a Madrid. Sì, sì, infatti. Mica com'è finita ieri a Caronno Pertusella Inter Caronnese? Ma lo sapevo, te l'ho servita proprio su un piatto d'aretto. Non so, non ho seguito. Non stavo seguito. Leggendo Destinazione Italia e volevo farti togliere a tutti i costi la ritenuta del 20%. Ottimo, ottimo. Comunque, se vuoi, forse a pagina 8 della Gazzetta di Caronno Pertusella ci sarà il risultato. Magari vai a comprarla, mi raccomando. Poi passo da te, mi dai la Gazzetta di Caronno Pertusella se ce l'hai lì. Grazie, grazie. A domani, caro Mauro Meazza, ci ritroviamo. Un abbraccione, ovviamente. Grazie per essere stato con noi. Il traffico. Alessandro Milan, il Dante Alighieri dell'informazione. Certo, sicuro, uguale, uguale. Tratto la lingua italiana allo stesso modo. Allora, c'è da dire che non è una buona notizia invece quello che è il giudizio della Corte dei Conti sulla spesa pubblica italiana. È vero che dal Tesoro arrivano le smentite dicendo non è vero, ma il titolo che trovate sui giornali è "Torna a crescere la spesa pubblica", che davvero mette un po' di imbarazzo quando si parla tanto di tagliare gli 800 miliardi di spesa pubblica italiana, e invece questo titolo ce lo ritroviamo. La Corte dei Conti, come racconta Roberto Turno a pagina 3 del Sole, corre il cavallo della spesa pubblica, un giudizio che non sono certamente carezze quello che la Corte dei Conti ha deciso di dispensare alla legge di stabilità 2014, un giudizio sulle ultime scelte di politica economica che arriva proprio nel momento del passaggio tra Letta e Renzi, un giudizio arricchito da un forte pessimismo sulla ripresa, il credit crunch destinato a mordere ancora le imprese che già soffocano e la potente medicina da 40 miliardi per onorare i debiti della pubblica amministrazione è stato un palliativo buona solo per le banche. È insomma un giudizio abbastanza impietoso anche su Repubblica. Trovate questo titolo, l'allarme della Corte dei Conti, spesa pubblica 7 miliardi in più con l'ultima legge di stabilità e mancherà tra l'altro, secondo sempre la Corte dei Conti, un gettito per 13 miliardi, cioè mancherà 13,7 per la precisione, miliardi di entrate sono a rischio. Non è facile. Dando uno sguardo internazionale, ancora su tutti i giornali c'è la vicenda dei tanti morti in Ucraina, la repressione di Yanukovych. Vi segnalo l'articolo di Bernard Henri Lévy, intellettuale francese, che in prima pagina del Corriere della Sera, sottotitolo "Punire il regime, boicottare Sochi", nella coincidenza delle immagini tra le nevi di Sochi e il sangue di Kiev c'è qualcosa che offende l'intelligenza e spezza il cuore, scrive Henri Lévy. La festa olimpica è al culmine, mentre in Ucraina si svolgono i funerali del sogno europeo da parte di un popolo che in quel sogno crede. Da una parte c'è un Putin terribile che arma la mano di Yanukovych, dall'altra un Putin che si pavoneggia sulle tribune olimpiche. Resta pochissimo tempo per salvare l'onore. Il monito ai responsabili dell'Europa: lasciamo Sochi o almeno boicottiamo la cerimonia di chiusura. Bernard Henri Lévy continua poi nel suo articolo: nella coincidenza delle immagini, nella concordanza quasi perfetta delle due cerimonie, quella della festa olimpica che è il culmine, quella dei funerali del sogno europeo da parte di un popolo che in quel sogno ancora credeva, la domanda è questa ai responsabili di un'Europa di cui si calpestano in questo preciso momento gli emblemi e le bandiere. Signora Ashton, signori Barroso, Schulz e Sochi, il vostro posto non sarebbe laggiù a Kiev, nella piazza Maidan in fiamme, che da lungo tempo i suoi occupanti ha ribattezzato piazza dell'Europa? Un suggerimento ai signori Hollande e Obama, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, di cui abbiamo appreso la sera del 18 febbraio dal ministro francese dello sviluppo economico che la settimana scorsa la questione ucraina era nel programma delle discussioni a Washington. I morti dell'Europa, le centinaia di feriti inseguiti da forze speciali, che come sanno gli osservatori sul campo andranno fino in fondo. Il muro di fiamme che mentre scrivo queste righe taglia in due questa piazza magnifica e pacificamente occupata da un popolo la cui unica colpa è manifestare il proprio amore per la patria di Jean Monnet e Vaclav Havel. Tutto questo non merita una convocazione urgente del Consiglio? Questa provocazione, questa sfida, questo crimine a freddo e sicuro di sé non valgono almeno un'intimazione al regime e al suo padrino? Ecco, queste sono le domande che Bernard-Henri Lévy, intellettuale francese, pone e le trovate in prima pagina del Corriere della Sera sulla vicenda ucraina e sul mancato intervento della comunità internazionale, almeno fino a questo istante. Oh, cosa troviamo ancora di cronaca? Invece troviamo tanti articoli su che cosa? La vicenda di una escort che si è vista arrivare dal fisco una richiesta di pagare 50.000 euro. Per che cosa? Per le sue prestazioni. Cioè ha evaso il fisco. E allora, partendo da questa storia, Libero la racconta così a pagina 15: l'ipocrisia a luci rosse del fisco, la escort si tassa ma col trucco, cioè lo Stato tollera la prostituzione ma non la regolamenta e per far pagare le imposte sui guadagni le equipara tutto ciò al lavoro autonomo, così fa cassa e salva la faccia. È una storia che c'è anche sul giornale, sul Quotidiano Nazionale, scusate, la trans nuda contro Equitalia, pago le tasse se mi regolarizzate. Una vicenda che ha portato avanti Efebal a Milano, uno dei più noti transessuali a Milano, anche mediaticamente parlando, è finito spesso sui giornali a raccontare questa ipocrisia del fisco. Efebal racconta: io ho ricevuto per esempio una cartella da 425.000 euro, allora dico va bene, regolamentate questo lavoro, io voglio pagare le tasse, però poi voglio i contributi, l'accesso al welfare e anche un domani la pensione. E come Efebal c'è appunto questa nuova storia di una nuova escort che è stata raggiunta da una cartella esattoriale di 50.000 euro. Anche per Repubblica, sì alle tasse, ma vogliamo la pensione, la crociata delle escort contro il lavoro nero. L'altra polemica invece, sempre da Repubblica, in prima pagina ve la segnalo, è l'appello di Umberto Veronesi, un articolo di Repubblica in prima pagina, che invita, prendendo spunto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale contro la Fini-Giovanardi, invita a liberalizzare, bisognerebbe dire meglio legalizzare, la cannabis. Questo l'appello di Veronesi, che scrive su Repubblica: lo spinello è considerato dai giovani una droga ludica e innocua. Vietarlo serve solo a stimolare la loro propensione alla trasgressione. E ancora, se anche pensiamo che la cannabis sia l'anticamera di sostanze più pericolose, davvero crediamo che penalizzando il possesso di una dose possiamo interrompere la spirale di angoscia esistenziale che porta al baratro mortale della droga pesante? I dati ci dicono di no. Se fosse vero, le statistiche non mostrerebbero 200.000 dipendenti da droghe pesanti, più o meno come 10 anni fa, ma molti di più. Insomma, legalizzare la cannabis, questo è l'appello di Umberto Veronesi oggi su Repubblica. Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Sapete qual è oggi? Anzi, il giornale più inutile scovato tra i giornali, a mio insindacabile giudizio. Questo l'ho già fatto una volta e lo faccio anche oggi, perché diamine, la partita di ieri mi ha fatto molto arrabbiare. Questo giornale che titola Ai Milan, la Gazzetta dello Sport, oggi è veramente una carta che costa tantissimo e che non voglio vedere, e che quindi finisce così. Giornale radio.